video. Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia, di Dino Pesole. L'Europa, inutile negarlo, vive una fase di grave crisi da cui potrà emergere più forte e coesa oppure avviarsi alla disintegrazione se prevarranno gli egoismi e il ritorno ai nazionalismi, ai muri e alle barriere doganali. La lunga crisi economica ha lasciato tracce profonde e ora l'emergenza migranti sta mettendo a dura prova la tenuta della nostra casa comune europea. E allora quale futuro si prospetta per il vecchio continente, ora che tra le varie emergenze incombe anche il referendum inglese del prossimo 23 giugno, quando la Gran Bretagna deciderà se restare oppure no nell'Unione Europea? Ne discutiamo questa sera in compagnia del professor Umberto Triulzi, che è docente di politica economica europea e politica economica internazionale alla Sapienza di Roma, autore del libro, ripubblicato ora nella seconda edizione da Mondadori, dal titolo Le politiche economiche dell'Unione Europea. Il professor Triulzi è in studio con noi questa sera. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, ci concentriamo sulle politiche economiche, con questa premessa tratta dal primo capitolo del libro relativo alle dinamiche dei processi di integrazione. Poiché ciascun livello di integrazione include tutti gli stadi precedenti e poiché normalmente il passaggio alla fase successiva permette di superare una serie di criticità tipiche della fase precedente, nelle tradizionali trattazioni dei processi di integrazione si offre spesso l'errata impressione che il passaggio da una fase meno avanzata verso fasi più avanzate del processo di integrazione avvenga secondo un percorso conseguenziale. La realtà storica è ben diversa e l'esperienza dimostra, al contrario, come i processi di integrazione si svolgano secondo modalità e percorsi che, lungi dall'essere lineari, producono dinamiche economiche, politiche e istituzionali estremamente complesse e diverse tra di loro. Allora, professor Triulzi, vogliamo fare qualche esempio di questo procedere a zigzag in Europa? E l'altra questione, poiché la prima edizione del libro era del 2010, la seconda del 2016, in 6 anni cosa è successo? Beh, quello che è successo lo vediamo e lo paghiamo giornalmente, nel senso che la crisi economica e finanziaria scoppiata nel 2007 negli Stati Uniti si è sparsa per tutto il mondo, ma ha colpito in maniera molto pesante tutti i paesi dell'Unione Europea, e per cui l'Unione Europea ha dovuto mettere in piedi una serie di strumenti per superare le difficoltà attuali. Strumenti che sono in sostanza, in prevalenza, tutti concentrati sul rafforzamento della disciplina di bilancio. Direi assolutamente sì. Oggi il leitmotiv delle politiche europee è l'austerity, è il richiamo dei paesi più indebitati a rispettare le regole del bilancio e quindi a cercare di tornare a conti in pareggio. Ecco, però ora forse si impone una svolta, cioè è già qualche cosa sta emergendo con la flessibilità, eccetera, insomma, in direzione della crescita, della spinta agli investimenti produttivi. Direi di sì, questo è quello che per esempio l'Italia sta chiedendo con forza ultimamente, cioè una maggiore flessibilità nell'interpretazione delle regole di bilancio. Ho l'impressione che tuttavia non basti la flessibilità. A noi è stato concesso lo 0,87, quindi stiamo parlando di piccolissime percentuali sul PIL. Dobbiamo lavorare di più e soprattutto dobbiamo andare in direzione di maggiori investimenti pubblici. Allora, parliamo ora delle principali tappe che hanno portato all'attuale assetto di regole e principi che governano l'economia europea. Da dove vogliamo partire, professore? Beh, direi che probabilmente la data sulla quale possiamo convergere, almeno come punto di partenza, è il Trattato di Maastricht, perché lì definiamo il percorso che ci porterà poi all'Unione Economica e Monetaria del 1999. Certo, il Trattato di Maastricht ha avuto delle grandi difficoltà, perché come sappiamo inizialmente ha avuto poca adesione in Europa e quindi è stato necessario chiedere un ulteriore referendum in Irlanda e in Francia. Il referendum è stato approvato di poco, quindi in sostanza la partenza è stata molto difficile perché l'Europa in quel momento viveva una situazione di crisi. Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, il Trattato di Maastricht viene firmato nel 1991 e va in vigore nel 92, ed è il trattato che sostanzialmente inserisce i famosi parametri. Esatto. Ecco, dopodiché però si capisce subito che l'altra gamba, cioè la gamba della politica economica, non c'è, quindi... Beh. In realtà è vero, noi abbiamo costruito un'unione economica e monetaria, quindi una moneta unica senza uno Stato e quindi senza un'autorità che potesse gestire le politiche economiche dei paesi che avevano accettato e avevano i parametri in regola per entrare nell'Eurozona. Questo è stato un punto di grande debolezza che nel tempo purtroppo si è rafforzato, perché negli anni che sono succeduti all'ingresso della moneta unica, in realtà le divergenze all'interno dei paesi membri sono aumentate, non diminuite. Quindi a questo punto siamo in che anni? Alla fine degli anni 90? Siamo alla fine degli anni 90, quando il mondo intero viene sconvolto da quella grande crisi degli anni 2001, cioè le famose torri gemelle, e di lì tutte le successioni negative in termini economici e politici che hanno interessato tutta la globalizzazione, quindi i mercati internazionali, e che hanno avuto un forte riflesso in Europa. E poi però si arriva in Europa alla definizione della moneta unica di per sé, perché poi nel 92 è stato avviato il percorso. Poi nel 98 c'è il famoso Consiglio europeo. Ecco, sì, cosa succede lì? Lì praticamente il trattato indicava che la Commissione avrebbe dovuto accertare quali dei paesi membri dell'Unione europea avevano, come dire, maturato il rispetto delle regole e quindi potevano entrare, e sono stati ammessi 11 paesi membri. Naturalmente è stato un grande sforzo per molti paesi entrare. L'Italia aveva parametri disallineati rispetto a quelli di Maastricht e quindi è stato un sacrificio enorme che la comunità italiana ha dovuto, tutto il paese ha dovuto sopportare, per soprattutto rispettare i parametri del debito pubblico. Ecco, e quindi entrata in vigore la moneta unica, passano alcuni anni intermezzo, come possiamo definirlo? Sono gli anni in cui teoricamente avremmo potuto fare qualcosa di più per cercare di introdurre le riforme, soprattutto in alcuni settori importanti, nella pubblica amministrazione, nelle infrastrutture, nell'educazione, insomma, quindi in realtà noi, e soprattutto nel mercato del lavoro. E purtroppo noi non abbiamo fatto quelle riforme, quindi la crisi del 2007-2008, che poi ha avuto delle ripercussioni enormi in Europa nel 2010-2011, ci ha praticamente travolto. Una delle critiche che viene spesso rivolta alla moneta unica è che sostanzialmente il fatto che noi abbiamo una moneta comune europea non ha coinciso con l'affermazione di una vera identità europea. Cioè abbiamo una moneta unica ma non siamo ancora europei? Questo è un po' il senso? Ho paura di sì, ho paura che noi abbiamo costruito questo processo molto complesso, come sappiamo, e articolato nel tempo, ma questa identità europea, nonostante abbiamo un passaporto che recita la prima frase Unione Europea, in realtà sia ancora un percorso lungo da raggiungere. L'Europa oggi soffre del fatto che alcuni valori, principi sui quali noi abbiamo costruito questo processo in realtà non sono condivisi da tutti, e lo vediamo nei problemi dell'immigrazione. Quindi è difficile da costruire questa identità, ma è l'unico modo per cercare di consolidare il processo. Ecco il punto, la riflessione che va fatta quando noi facciamo un po' di storia dell'Europa, storia recente, e che alla crisi dell'Europa si dovrebbe rispondere con più Europa, non meno Europa, ma mi sembra che da questo punto di vista non c'è molta consapevolezza in giro nelle capitali europee. Che dice? Questo è un punto molto importante, perché noi facciamo una grande differenza tra l'Europa reale, quella che effettivamente abbiamo costruito in 58 anni, e l'Europa percepita. L'Europa percepita è molto più limitata rispetto all'Europa reale, e questo dà il senso di quanto noi poco sappiamo dell'Europa. Quindi dobbiamo, per migliorare l'Europa, per cambiare l'Europa, bisogna conoscerla di più. Ecco, e cosa bisognerebbe fare? Cioè, quali passi lei identifica, guardando anche alla storia recente dell'Europa, che dovrebbero essere messi in campo subito? Beh, io credo che sicuramente dobbiamo portare a compimento il disegno dell'Unione Economica e Monetaria. Lì mancano molti pezzi, molte colonne portanti, come l'Unione Bancaria, l'Unione Fiscale, il Bilancio Unico. Insomma, sono riforme importanti, in parte avviate, ma in parte ancora da avviare. Sì, perché in fondo, se ci pensiamo bene, questa è una costruzione zoppa. Il presidente Ciampi parlava, sì, di zoppia, non io, a caso. Io parlerei di un tetto a metà, quindi ci piove molto dentro e non tutti sono soddisfatti, ovviamente. Bene, allora io vorrei chiudere con questo passaggio della prefazione alla prima edizione del suo libro, che reca la firma del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Ecco, Napolitano dice: non dobbiamo cedere al pessimismo, la via dell'unità europea è una valida alternativa al graduale declino dei nostri paesi, alla loro marginalizzazione sulla scena internazionale. Lo avevano intuito con straordinaria lungimiranza i padri fondatori. Allora, professore, che futuro ha questa Europa e che futuro stiamo preparando per i nostri giovani europei? Ma io sono convinto che il futuro dell'Europa è quello che noi siamo in grado di costruire, quindi portare avanti queste riforme che dobbiamo assolutamente realizzare non solo in Italia ma in tutti i paesi dell'Unione Europea, completare il disegno della casa europea, la casa dell'Eurozona, ma soprattutto credo che dobbiamo dare un segnale diverso nel modo in cui noi cittadini diventiamo attori di questo processo. Io sono convinto che l'Europa parte dal basso e non più dall'alto. Infatti Napolitano dice occorre reagire alle difficoltà attuali dispiegando il potenziale del Trattato di Lisbona. Bene professore, allora nel salutarci vorrei appunto salutarla con questo brano tratto da un film documentario non molto noto che si chiama The Great European Disaster Movie di Annalisa Piras e Bill Emmott, che come dire prefigura un futuro non proprio come dire brillante e ottimistico per la nostra Europa, e cioè la sua dissoluzione. Ovviamente siamo in uno scenario fantascientifico. Speriamo che non si realizzi. No, speriamo che non si realizzi assolutamente. Bene, ecco, ascoltiamolo. Soldi? Valgono qualche cosa? Per i collezionisti, o gli archeologi. Servivano per il mio discorso. Parlava di soldi? Parlava del ruolo del denaro nell'implosione dell'Europa. Questo è il taglio di banconote più grosso della moneta unica europea. Vedi questi punti? Dovevano simboleggiare l'unità, l'unificazione, il legame tra i paesi. Era una grande idea, ma purtroppo non ha funzionato. Tutt'altro. I leader europei volevano la moneta unica senza solidarietà. Dopo 6 anni senza fare nulla, e 3 recessioni di fila, l'economia mondiale è collassata. E la Spagna è stata tra le prime vittime. Bene, allora grazie ancora al professor Triuffi. Grazie. Grazie a Alessandro Chiappini in regia e a Luca Cremonese in redazione. A sabato prossimo.